fuori il popolo masticato, ormai il peggio è passato, si è quasi abituato, come un segno del destino, che vuoi dirgli è un bambino, stringe forte il suo cuscino, non lo lascia. Sia spese di gente onesta, io non ci sto. Ti senti più furbo, io quello che ti tormenterà sarò. È vero o no? Tutto funziona a metà. È vero o no? Ma costa il doppio, si sa. È vero o no? Che in Italia l'onestà. È vero o no? Non è più una qualità. Non mi convincerà chi perso. Se c'è il sole, qualcuno dice, hey, quando ti sveglierai, hey, qualcun altro invece sta rubando i sogni miei, hey, voglio vederlo in faccia bene, chi si lamenta e poi guida un Porsche e dichiara il suo vero mestiere con 7:30 da povero. È vero o no? E non c'è politica. È vero o no? Senza stargli vicino, che vuoi dirgli è un bambino, vuole solo aver la vita sulla mamma. Hey, non capirà mai, non capirà. Io quello che ti tormenterà sarò. Qualcuno dice, hey, non si cambierà mai, non cambierà mai. Qualcun altro invece pensa solo ai fatti suoi, non